te ti devi rimbalzirando vuol dir per me, io voglio bene a te. Quel canto nel sambo la brille lo dì, la rosa sul campo stanotte fiorì, l'ho colta tremando, pungendomi un po' e adesso te la do. Profumo d'un fior, con la musica di un cuor, per te canterò. Una bella pilastro che la tua bocca bacerò, birimbo, birambo, birimbo, birambo vuol dir per me, io voglio bene a te.